Thank you. Che par, mal timor, il dolor che par, mal

cervello non hai sano, il cervello non hai sano. Figlia mia, che si farà? Figlia mia, che si farà? Il cervello, figlia mia, non hai sano, non hai sano. Figlia mia, che si farà? Thank you. potrà difendere chi ti darà ragione e in faccia alla miseria la fame a tramontana e dal furor dei barbari chi mai ti salverà Ulleri e col descalzo arrestando poi Ulleri contro la gente pianinare Thank you. non men che darti ciò che brami ed anemi, adunque il cor ciò che desia disveli. Thank you. Thank you. Antico delitto nel posto forse prima quell'infelice invoca il ciel che brami attraversar quell'onda. Ma attendi, or vengo nell'opposta sponda. Thank you. Thank you. quel volto ingenuo virtù ben spira, svanita e lira che m'infesti. Pronto, genuo virtù ben spira, svanita e lira che m'infesti. Qui qual, mamma, Thank you. estremi d'una tenera figlia per incauta pietà fonte di duolo al paterno mio cor sull'orme io volo mentre al russo sovrano dal mio governator favella il figlio che ignoto mi rapì fuor dell'esilio dalla città lontana vuol prudenza per fin ch'io qui m'aggiri la tradirmi potriano la tradirmi padriano i miei sospiri. Thank you. Di quest'anima straziata sorto al pianto il cento ne. frate, sì, sua eccellenza. Questa lettera è un'inezia per un affare inconcludente, se ne cava fuori i piedi sono un uomo in verità. Via ti spiego, via ti spiego, via ti spiego, via ti spiego. Zitto, zitto, l'ho pensata. Zitto, sì, sì, l'ho pensata, ed è bella come va, ed è bella, ed è bella, ed è bella come va. Questa carta che è la tua, chi potrebbe dubitar? Ma, però più sua che mia, sì, con ragion si può chiamar. Non intendo, parla di nuovo. Tutto voglio avresti far. Il boiardo mi vuole in voi. Mi volete far parlar, mi volete far parlar. Questi quattro scarafoni poco prima di crepar vuole darmi ma quel patto che dovessi consegnar nelle mani dello zar ad oggetto di salvar. Il rapidito fra catene è già stanco si di penar, questo voglio tante pene potrà forse consolare, potrà forse consolar, questo voglio tante pene potrà forse consolar. Li sentite già suonare. presto andiamo, presto andiamo, che egli stesso a chiamarci poi verrà. La la la la la la la la la la, a chiamarci poi verrà. Maresciallo, li sentito i tamburi, le trombette, i tamburi, le trombette, i tamburi, buonasera, buonasera, buonasera, voi si dà, li sentite le ingiustamente, ingiustamente, dall'esilio ritolto, già prese il vostro grado.